No, non la voglio dire. Sì, la dico. Insomma, palcoscenico al neo perché siamo in fondo, cioè, lavoratori più o meno precari, stabili, quello che siamo, lavoriamo, non facciamo musica, per cui tutti i giorni il nostro palcoscenico sui posti di lavoro e sono illuminati al neon. Ciao, sono Laura delle Molestia, band punk Riot Gear da Roma. Vi aspettiamo il 5 aprile all'ex SNIA per il ventennale di palcoscenico al neon. Non fartelo raccontare! Bella raga, sono Riccardo dei Colle Luna. Vi aspettiamo il 5 aprile all'ex SNIA per il ventennale dei palco, il ventennio quello giusto. Ci vediamo. Sono Chris degli Ugly Circle. Anche noi saremo il 5 aprile all'ex SNIA Viscosa per il ventennale dei palcoscenico al neon. Siateci e non fatevelo raccontare. Ciao, sono Pavel, ci vediamo il 5 aprile a Roma all'ex SNIA per i 20 anni dei palcoscenico al neon. Siateci. Palcoscenico al neon festeggiano i loro 20 anni di attività con Radio Onda Rossa. Sabato 5 aprile, ore 21. Ugly Circle, Colle Luna, Molestia, Pavel, palcoscenico al neon, set list speciale per 20 anni di attività. Centro sociale occupato autogestito ex SNIA. Via Prenestina 173, ingresso a sottoscrizione e a sostegno del finanziamento di Radio Onda Rossa, 5 euro. Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, eppur bisogna andare.